24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questa nuova edizione di 24 ore in Europa. È stato posticipato, ma alla fine si è svolto nella serata di ieri, ora italiana, l'incontro tra il presidente statunitense Barack Obama e i leader europei del G20, tra cui il presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy. E il premier Mario Monti ha parlato ieri a margine della seconda giornata di lavori del G20. L'Europa si muoverà già nei prossimi giorni con scelte decisive, ha detto Monti, che poi, a proposito della necessità di lavorare anche in Europa per la crescita e non solo per il rigore dei bilanci, ha ricordato così la posizione dell'Italia. Noi Italia ci siamo molto impegnati perché il documento finale rifletta quelle che conoscete essere le posizioni italiane, di molto accento sulla crescita pur in un quadro di disciplina di bilancio, e quindi aspetto con molto interesse il momento in cui potremo parlare ufficialmente delle conclusioni che ancora non esistono. Sentiamo l'inviato del Sole 24 Ore Alessandro Merli al G20 di Los Cabos in Messico. Ci sia una grande consapevolezza qui a Los Cabos che alla fine le decisioni importanti andranno prese in Europa. Lo ha detto Monti, lo ha detto Hollande, ma alla fine lo riconoscono anche sia gli americani che i grandi paesi emergenti, che hanno fatto molta pressione sull'Europa perché sanno che la crisi dell'euro può alla fine avere delle conseguenze molto pesanti anche su di loro. Quindi decisioni europee che da una parte, come ha detto Monti, come ha detto la signora Merkel, dovranno contemperare crescita e risanamento dei bilanci, ma soprattutto credo un'accelerazione sul progetto di unione bancaria, quindi di mettere in comune la vigilanza, di mettere in comune le garanzie sui depositi e uno schema di liquidazione delle banche decotte. Tutte le tecnicalità sono rinviate ovviamente in sede europea, come ha detto lo stesso Monti. Grazie ad Alessandro Merli. E al G20 di Los Cabos si è parlato anche di Siria. Gigi Donelli. Se ne parla, si fanno grandi proclami di impegni da parte di americani e russi, in particolare l'invito, il concetto affermato da Obama e Putin, uniti, così è scritto nella nota ufficiale, nel credere che il popolo siriano debba avere l'opportunità di scegliere indipendentemente e democraticamente il proprio futuro. Tutto bene, tutto male, nel senso che non viene presa nessuna decisione, che nel frattempo le navi da guerra russe ribadiscono la loro presenza con l'invio di due corvette al porto siriano di Tartus. Siria, alleato storico della Russia, la Russia non intende lasciare campo libero agli Stati Uniti. D'altra parte i bisticci tra Stati Uniti e Europa per assumersi il peso di un intervento naturalmente non aiutano in quello che è un vespaio. Oggi il ministro degli esteri italiano Giulio Terzi ha ricevuto il rappresentante personale di Putin Margielov, appunto, per la regione. Probabilmente il tentativo di sollecitare quello che viene richiesto anche dalla Siria, un ruolo maggiore dei paesi del Mediterraneo in una mediazione che al di là appunto dei proclami appare davvero incagliata. Grazie a Gigi Donelli. L'Unione Europea si attivi immediatamente per proteggere i cristiani in Nigeria e la richiesta degli eurodeputati della Lega Nord Claudio Morganti e Oreste Rossi, che hanno condannato l'ultima strage di cristiani nel nord del paese. L'ennesimo bagno di sangue, hanno commentato i due europarlamentari, dovrebbe spingere la comunità internazionale ad agire con urgenza prima che l'organizzazione terroristica Boko Haram, come già preannunciato dalla setta radicale islamica, colpisca ancora. E ora ci spostiamo in Grecia, dove sembra quasi fatto l'accordo politico per la nascita di un nuovo governo di coalizione, ma nel paese si parla molto e soprattutto della partita di calcio che vedrà opposte la Grecia e la Germania, quasi in un super derby europeo. Vittorio Darold, inviato ad Atene del Sole 24 Ore. Sì, esattamente. L'accordo tra i tre partiti politici pro-Europa è stato probabilmente raggiunto, manca ancora, diciamo, l'annuncio ufficiale che probabilmente arriverà a mezzogiorno, manca anche la lista dei ministri, anche se si sa che il premier sarà Antonis Samaras, leader di Neodemocrazia. Ma l'attenzione, come dicevate voi in studio, è sull'incontro di calcio contro la Germania, un evento che è diventato un momento del riscatto nazionale contro le politiche di austerità della Merkel. Il sogno dei greci è quello di mandare i tedeschi fuori dall'eurocompetizione, una specie di rivincita per un popolo da 5 anni in recessione, una partita che verrà seguita da 11 milioni di greci in maxi schermi in preparazione in ogni quartiere della capitale e del paese. Grazie a Vittorio Darold. In borsa è stato un giorno di riscatto in Europa, soprattutto per le piazze di Milano e Madrid. Londra ha guadagnato l'1,73%, Francoforte l'1,84%, Parigi ha registrato una crescita dell'1,69%, in gas polvero Madrid a più 2,67%, ma ancor meglio ha fatto Milano. Exploit di Telecom Italia sul listino milanese in una seduta che ha ignorato le indicazioni negative arrivate dalla Germania e dal mercato spagnolo dei titoli di Stato per mettere a segno rialzi consistenti. Il FTSE MIB, che ha guadagnato il 3,35%, è stato trascinato da Telecom Italia sulla scommessa degli investitori che il gruppo telefonico si siederà al tavolo con Metroweb e con la Cassa Depositi e Prestiti per definire lo scorporo della rete di accesso e lo sviluppo della banda larga. Le azioni Telecom hanno guadagnato il 7,9%. In evidenza il settore energia con A2A più 5,8% e con Enel Green Power più 5,6%. La controllata Enel delle energie rinnovabili ha annunciato l'avvio di 4 nuovi impianti fotovoltaici in Grecia nella regione del Peloponneso. Da Radio Corp e Radio 24, Andrea Fontana. Grandi possibilità ma anche grandi ritardi nella pagella annuale della Commissione Europea sul settore online. Tra le potenzialità del settore, l'e-commerce, che apre a costi potenzialmente bassissimi il mercato europeo a tutte le imprese dell'Unione. Tra i ritardi nell'agenda digitale spicca quello italiano. Al microfono di Davide e Maria De Luca, Lucilla Fioli, capo unità analisi economiche per l'agenda digitale della Commissione Europea. L'e-commerce è molto importante perché in questo campo l'internet è uno strumento che rafforza il mercato unico, per cui permette alle imprese di avere accesso a dei mercati più grandi del proprio mercato nazionale. Quello che osserviamo però è che i cittadini europei praticano l'e-commerce, ma non lo praticano in maniera sufficiente a livello transfrontaliero. Di solito sono i cittadini dei paesi piccoli che fanno e-commerce in paesi più grandi che parlano la stessa lingua. E quindi stiamo cercando a livello di Commissione di risolvere tanti problemi che riguardano soprattutto la fiducia che i cittadini hanno nell'effettuare transazioni verso altri paesi. E c'è un documento della Commissione proprio sull'e-commerce che è stato pubblicato in gennaio. L'Italia all'interno dell'Europa è un grande paese con un livello di reddito relativamente elevato ed è sorprendente che l'utilizzazione dell'internet, che spesso è legata al livello del reddito, in questo caso sia più bassa che la media europea, e questo lo osserviamo in tutte le statistiche che riguardano l'utilizzo dell'internet, anche quando i servizi come l'e-government sono disponibili. Purtroppo l'Italia o i cittadini italiani non lo utilizzano a sufficienza. Probabilmente questo è un problema di alfabetizzazione informatica. E so che il governo italiano sta lavorando su un'agenda digitale italiana proprio perché questa è la debolezza, diciamo così, dell'Italia, che è anche un paese con una parte importante di popolazione anziana. Qualità e controllo, ristrutturazione e promozione, strutturazione della filiera e concorrenza con i paesi terzi. Sono questi i grandi assi di intervento su cui si articola il piano di rilancio dell'olio d'oliva presentato a Lussemburgo dal commissario europeo all'agricoltura Dacian Ciolos agli 8 ministri dei paesi produttori di olio d'oliva dell'Unione Europea. Per l'Italia il ministro per le politiche agricole e alimentari Mario Catania. Il piano d'azione è stato trasmesso a tutti gli stati membri in occasione dello specifico comitato di gestione UE del settore. E in chiusura guardiamo all'estero, soprattutto in Europa, dopo le polemiche sulle parole del sottosegretario all'economia Gianfranco Polillo, che vuole far rinunciare a una settimana di ferie ai lavoratori italiani per un punto di PIL in più. La proposta non è nuova, ma riscuote sempre lo stesso coro di no. Ridurre le ferie di una settimana per guadagnare un punto di PIL, cioè circa 14-15 miliardi. A farla è il sottosegretario all'economia Gianfranco Polillo, ma è subito provocazione per la sua premessa: gli italiani vivono al di sopra delle proprie possibilità. Polillo mette tutti d'accordo però sul no. CGIL, CISL, UGL, Confesercenti, ma anche PD, IDV, PDC. Comunque il dato che cita spinge al confronto oltre confine. Lavoriamo mediamente 9 mesi l'anno, dice Polillo. Troppo poco? In Germania sono almeno 24 i giorni di ferie all'anno, per gli statali 26-30, ma non si monetizzano i giorni maturati. In Francia al massimo si hanno 25 giorni di riposo retribuito l'anno, più 11 di feste nazionali. In Gran Bretagna il minimo legale è di 20, più 8 18 di feste comandate. I più riposati sono gli spagnoli con 30 giorni di tetto massimo. All'opposto gli Stati Uniti, dalle 2 settimane l'anno alle 3 per i dipendenti di lungo corso. Ci sono però molte aziende minori che offrono ferie più ridotte o pagano i loro dipendenti per lavorare praticamente senza interruzione. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di 24 Ore in Europa. Grazie a Pietro Lacorte in regia. A voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.